Latitante Matteo Messina Denaro. Prezzo della benzina ancora rialzi, verde a quota 1,6 euro al litro. L'AIA, Mladic a sorpresa in aula, ma rifiuta di parlare e viene allontanato. Buongiorno dalla redazione di GR24, buongiorno da Maria Piera Ceci. Beppe Grillo torna oggi sugli scontri in Val di Susa. Ho chiamato eroi valsusini che manifestavano pacificamente come fanno da anni per il loro territorio, si legge sul suo blog. Sono il primo però a condannare a voler sapere chi sono i Black Blocs. Li trovino, li arrestino, dice ancora Beppe Grillo. Per gli incidenti in Val di Susa sono d'accordo con chi ipotizza il reato di tentato omicidio, sono invece le parole del ministro dell'interno Roberto Maroni oggi a Milano, da cui ha confermato che l'opera sarà comunque realizzata. A Radio 24 a parlare invece il sindaco di Torino Piero Fassino, che chiede che si vada avanti con i lavori per un'opera che definisce necessaria per la crescita del Piemonte. Lo ha intervistato Giacomo Segantini. Se il bilancio degli incidenti non è ancora più grave, è grazie alla saggezza e alla moderazione delle forze di polizia che si sono limitate a contrastare l'aggressione e l'assalto di coloro che con spranghe, pietre, bastoni hanno devastato il cantiere e l'area della manifestazione. Io penso che si debba dire con grande chiarezza che tutto questo è assolutamente inaccettabile. Si può anche dissentire dalla realizzazione di un'opera pubblica, ma lo si fa con la ragione e con le parole. Chi lo fa con i bastoni, con le spranghe, con le pietre è fuori della democrazia e non ci può essere nessuna forma né di tolleranza né di giustificazione. Tanto più quando si tratta di un'opera di cui si è discusso ampiamente per anni, con un tracciato che è stato del tutto modificato e ridefinito per dare risposte positive alle preoccupazioni della valle. È un'opera che serve allo sviluppo dell'Italia del Piemonte, è un'opera realizzata con il ricorso a tutte le più moderne tecnologie che ne consentono il governo e la gestione, c'è nulla che giustifica quello che è successo ieri. Ecco, però parliamo di cosa succede adesso. Succede che si va avanti a realizzare la TAV e non deve succedere nient'altro che questo. Con i sindaci, con coloro che hanno delle obiezioni al progetto, si continuerà a dialogare, con quelli che vogliono ragionare e parlare, non con quelli che vengono con le spranghe, ma si continuerà a ragionare per verificare il progetto nella sua realizzazione, non per arrestarlo per non farlo. Intanto sono ripresi i lavori nel cantiere della Maddalena di Chiomonte, la situazione al momento è tranquilla e sono pochi i notav ai presidi del movimento. Nel pomeriggio hanno annunciato una conferenza stampa. Veniamo alle reazioni politiche in diretta, Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno, parole durissime dal governo, la violenza in Val di Susa è di stampo terroristico, spiega il ministro degli interni Roberto Maroni, sono d'accordo per chi ipotizza il reato di tentato omicidio. Il governo annuncia che non ha intenzione di retrocedere dal progetto della Torino-Lione e Maroni afferma l'opera sarà fatta e saranno garantite le misure di sicurezza. Stesse parole del ministro delle infrastrutture Altero Matteoli, per il quale lo Stato non può cedere davanti a un gruppo di violenti. Andremo avanti, lo stesso con la TAV. Intanto Beppe Grillo precisa la sua dichiarazione sui Black Bloc, definiti tutti eroi ieri, e invece oggi corregge: sono stato additato dai media come fomentatore di violenti, spiega l'ex comico, questo non è assolutamente vero. Ieri ho chiamato eroi i valsusini che manifestavano pacificamente, sono il primo a condannare e a voler sapere chi sono i Black Bloc annunciati dai media dai giorni, li trovino e li arrestino. Tutto questo ricordiamo dopo che ieri il Quirinale ha espresso dura condanna contro i violenti in Val di Susa. Per il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, i fatti accaduti ieri sono responsabilità di gruppi addestrati a pratiche di violenza eversiva e sollecita la più netta condanna delle istituzioni e delle componenti politiche e democratiche. Per il momento qui da qui è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Sul piano politico prosegue il dibattito sulla manovra, in diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Varata dal Consiglio dei Ministri, la manovra è attesa ora nero su bianco dal Parlamento, mentre il decreto è arrivato questa mattina sul tavolo del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Si stanno comunque ancora facendo degli aggiustamenti tecnici, ma l'impianto non cambia, garantisce il Ministro per l'attuazione del programma Rotondi. In realtà, in vista del passaggio tra Camera e Senato, non si starebbe lavorando a semplici dettagli, ma a misure che negli ultimi giorni hanno creato più di una polemica, tra tutte la norma che blocca la rivalutazione delle pensioni, non solo quelle più alte, da qui la perplessità all'interno all'interno della stessa maggioranza, con il no della Lega e con il Presidente del Senato Schifani che ha auspicato sull'argomento un compromesso. Su altri temi quali taglia la politica non si hanno ancora indicazioni, altre norme invece sembrerebbero sul punto di saltare nonostante il via libera del Consiglio dei Ministri, come l'intervento su banche e transazioni che verrebbe rivisto con un appesantimento sull'IRAP e da un'imposta di 120 euro sui dossier titoli. Bocciato dall'esecutivo potrebbe rientrare il taglio del 3% alle bollette dell'elettricità, misura che sarebbe raggiunta attraverso il blocco degli incentivi e delle agevolazioni al settore. Niente stop infine, secondo il Ministro dell'Agricoltura, al recupero delle multe sulle quote latte. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. L'abbondanza dei margini lordi delle compagnie non sembra arrestare la corsa al rialzo dei prezzi raccomandati sulla rete carburante italiana. Nuovo record storico per la benzina, che nei distributori Esso vola a 1,613 euro al litro, a 1,6 euro anche il prezzo consigliato ai gestori Kuwait. Ed ora le borse con Roberta Pellegatta. Buongiorno, rimangono deboli i listini europei. Parigi perde in questo momento lo 0,20%, Francoforte guadagna lo 0,11%, Londra cresce dello 0,32% e a Milano Piazza Affari è vicina alla parità, ma oggi non è ancora riuscita a virare in positivo. Il FTSE MIB perde lo 0,17%, il FTSE Share lo 0,13%. E la nota di Standard & Poor's sul rimborso del debito greco oggi ha messo sotto pressione in tutta Europa le banche. Ma in questo contesto difficile a Milano spiccano le performance di MPS e di UbiBanca. Monte dei Paschi sale perché oggi Société Générale ha alzato il suo giudizio da hold a buy e quindi è il miglior titolo in questo momento, ha fatto un vero e proprio balzo, guadagna il 4,78%, ma come si diceva va bene anche UbiBanca che guadagna il 3,16%. Invece il peggior titolo è Intesa San Paolo, meno 1,57%, seguito da Unicredit, meno 1,56% e da Mediobanca che perde l'1,53%. Vediamo i cambi come sempre, su dollaro in questo momento è 1,45,17 ed è tutto. Grazie a Roberta Pellegatta. Non ha nessuna intenzione di lasciare Montecitorio, vuole ristabilire la verità davanti alla giunta per le autorizzazioni, così il deputato del PDL Alfonso Papa, coinvolto nell'inchiesta P4, dice al Corriere della Sera di essere vittima di un massacro mediatico. E c'è un nuovo identikit del superlatitante Matteo Messina Denaro, indicato come il nuovo capo di Cosa Nostra, ed è stato predisposto dal Servizio Polizia Scientifica della Polizia di Stato. Se è vero che il tempo passa per tutti, la regola vale anche per i boss. E così è stato elaborato un nuovo identikit per la primula rossa della mafia siciliana, nonché quarto latitante più ricercato al mondo, Matteo Messina Denaro. Da oggi, a 49 anni, ha un nuovo volto, o meglio, un nuovo volto presunto elaborato con le più avanzate tecniche di simulazione grafica. Matteo Messina Denaro, da giovane delfino, appare un po' più stempiato e un po' più robusto. In un'immagine si ipotizza porti gli occhiali, in un'altra che se ne vada in giro con il cappello. Non solo fantasia, vale dirlo. I complessi programmi grafici usati dalla polizia per invecchiarlo hanno tenuto conto anche delle immagini dei suoi congiunti, in particolare del fratello Salvatore. Questo perché, generalmente, nella stessa famiglia si invecchia un po' nello stesso modo. L'ultimo identikit del boss risaliva all'aprile del 2007, quando il padrino trapanese, originario di Castelvetrano, non era ancora l'erede di Riina. E se il suo volto reale resta un mistero, il ritratto che invece ne emerge dai racconti dei pentiti e dai pizzini sequestrati nel covo di Bernardo Provenzano è quello di un boss spietato che ama vestire in modo elegante e le belle donne. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È rientrata allo scalo romano di Ciampino dell'aereo con la salma del caporal maggiore scelto Gaetano Tuccillo, ucciso sabato in Afghanistan. A Roma, dopo l'autopsia, una camera ardente sarà allestita all'ospedale militare del Celio. I funerali si svolgeranno domani mattina nella Basilica Romana di Santa Maria degli Angeli. Ed ora all'estero, in Egitto, manifestanti di nuovo in piazza dopo gli scontri della notte scorsa. Uno dei più famosi teatri della primavera araba, Piazza Tahrir, al Cairo, è tornato ad essere luogo di scontro. Da venerdì la piazza ospita di nuovo i bivacchi di centinaia di manifestanti che chiedono che siano processati i responsabili della repressione delle proteste di inizio anno contro il presidente Mubarak. Manifestanti che nella notte sarebbero stati attaccati da venditori ambulanti, quelli della piazza, con coltelli, bastoni e pietre. Da lì gli scontri che ufficialmente hanno provocato 54 feriti. Fonti indipendenti però parlano anche di un morto e centinaia di feriti. Il quotidiano Al-Masri Al-Yum riferisce che alcuni dei venditori ambulanti avrebbero ammesso di aver preso denaro per causare questi disordini e che prima dell'attacco alcuni poliziotti in borghese erano stati visti confabulare con i venditori. Nelle stesse ore, un attentato dinamitardo ha colpito il gasdotto che dall'Egitto porta gas naturale verso Israele e la Giordania. Dall'inizio dell'anno è il terzo atto di sabotaggio allo stesso gasdotto. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Il giudice del Tribunale Penale Internazionale dell'AIA ha respinto la richiesta di Ratko Mladic di rinviare l'udienza. Il rinvio è stato chiesto dall'ex generale serbo-bosniaco perché non pronto a dichiararsi, così come prevede la procedura colpevole o non colpevole. Mladic, contrariamente a quanto annunciato stamani, si è presentato in aula. Il giudice del Tribunale Penale Internazionale ha chiesto alla sicurezza di portare fuori dall'aula l'ex generale che si rifiutava di rispondere alle domande ed ascoltare il giudice in silenzio. Un oleodotto dell'ExxonMobil ha riversato un migliaio di barili di greggio nel fiume Yellowstone, nel Montana, ed è stato chiuso. Lo ha reso noto la stessa compagnia petrolifera americana. Dirigenti della Exxon hanno affermato che ci sono tracce di petrolio lungo 10 miglia, 16 chilometri circa, nel corso del fiume, ma secondo il governatore dello Stato potrebbero essere molte di più. L'ordinazione episcopale di Lei Xin in Cina ha amareggiato profondamente il Papa e la Santa Sede. Quest'ultima fa sapere che questo atto danneggia l'unità della Chiesa, è un atto unilaterale che semina divisioni e ribadisce che se si vuole che la Chiesa in Cina sia cattolica si devono rispettare la dottrina e la disciplina della Chiesa. Ed ora siamo allo sport, al Tour de France. La cronosquadra regala spettacolo e una nuova maglia gialla, ma forse ridimensiona anche le aspettative della pattuglia italiana. Dopo averci dormito su, si riprende il cammino con lo spirito di chi sa che il tour è appena incominciato e che quindi non è il caso di fare drammi. Ieri dalla cronosquadra il nostro ciclismo ne è uscito ridimensionato. Quindicesimo alla Liquigas, diciassettesimo alla Lampre. Bass e Cunego non ridono, ma ripartono convinti di poter vivere giornate ben positive. Intanto ci consolidiamo con Manuel Quinziato, italiano in forza all'americana BMC di Cadel Evans, e non in classifica generale ad una manciata di secondi dalla maglia gialla Thor Ushov, che oggi a Olonne-sur-Mer ripartirà col simbolo del primato per la quarta volta in carriera. Ushov ha sogno di portare per la terza volta in carriera a Parigi la maglia verde della classifica punti, quella che un anno fa finì sulle spalle del nostro Petacchi. Per il momento copre la maglia di campione del mondo con quella gialla, che in quanto a prestigio è forse ancora più riconosciuta e riconoscibile. Oggi terza tappa, si lascia la Vandea per la Bretagna, si arriva a Rendon, tappa per velocisti e per gente come Cavendish e Petacchi, dopo il dio del tuono e i signori del vento, ma potrebbe essere ancora il giorno di Thor Ushov. Per Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Olonne-sur-Mer. Prossimo GR 24 alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.